Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazze, minime e ciulle, quella parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto mi viene, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, quella parrucca, presto la barba, presto mi viene. Attenzione, lo zio di Sara, Michele Misseri, ha cambiato di nuovo versione. Ormai è prontissimo a scendere in campo per il PDL. Ricominciamo! Ricominciamo! Ricominciamo!